senti a me, Natalino, mi senti Natalino, sveglia. Più alta, Bene, bene, quindi tra poco ti vedremo a mangiare con salvatore, bulloni, vizi, fil di ferro, fa un traliccio di 150 litri, così. Guarda, io ti posso dire una cosa già fra, così lo dico, poi se mi vuoi smentire smentisci, ma io non vorrei di andarmene da qua per togliere tutto, non mettere mai niente, più niente, anche perché mia figlia al giardino non vuole vedere né tralicci né niente, perché quando magari ci vediamo, abbiamo 5 minuti, ti porto e mi direi qua, hai ragione, assolutamente, non metto niente, c'è il prato inglese, c'è un bel muro con tutte le ringhiere, diciamo, non recinzione da pollaio, ma una cosa fatta veramente ad hoc, l'ho voluto fare una volta per sempre. Quindi stai pur certo che tolte da qua, quelle antenne vanno rimesse dentro le scatole, fatte le scatole se nessuno le ho mai buttate. L'unica cosa che ho chiesto se era possibile montare la manta, va. Quella l'appiatto, perché io CB sono matto e CB voglio morire. Per il resto è noia, non mi interessa Gianfra, non assolutamente. In che senso ho chiesto? Mica c'è il condomino e il coso, ma c'è il condominio. Ho capito, ma adesso non ho foto, ma farò una foto e te la mando, te la faccio vedere. C'è prato inglese, cosa faccio? Metto a scavare il prato inglese per me fare il plito per il traliccio. Mattina, non ci sto manco pensando, già fa, assolutamente. Quello è il posto per il cane, per giocare il cane, per fare il cane dentro il giardino. Non mi interessa, non c'ho più la passione di fare, a fare quelle cose lì. Qua le ho messe perché era una cosa che, insomma, un po' portato, un po', ma non ce ne butto più soldi, assolutamente. Le radio me le tengo perché le ho comprate con i miei soldi, ma non spenderò mai più una lira né a fare carrelli, né tralicce, né niente. Nulla Gianfra, già va bene così, due chiacchiere quando c'è necessità e basta, hai capito mi hai? Poi quando sarò in pensione, fra 2 anni e mezzo, 3 anni, ne parleremo. Per il momento mi interessa lavorare e portare avanti i progetti che ho in testa, poi per il resto non me ne ho fatto più nulla da nessuno Gianfra, fa sapere. Sì, sì, no, ma giusto per... su quello ti ho ragione, non è che guarda tutto la pena mettere il traliccio, un pacco vinti, un pacco di studio, non è assolutamente necessario, non è la pena, ma adesso che sei così in alto ti metti da una mantova, oppure se vuoi anche andare più sul fino, no? per evitare la mantova che comunque è pesante, ti metti quella che ho messo io, la... come era? Master, di Master, quella lì non c'è neanche da dietro. Senti quella, leggera, tranquilla, ti metti due staffette o qualche cosa del genere, non sai come, che neanche si vede. E vai tranquillo, se vuoi esagerare sotto ci metti anche uno piccolo stilo bibanda, boba, c'è due cose poco visibili, tranquillo, giusto per fare ascolto con la lamina, per avercela anche se non la uso. Una volta fatta, due cavi solo che scendono, non si mette in duplex addirittura, non so, meglio di così. Beh, io tutta l'attrezzatura qua ce l'ho, il commutatore elettronico della Meritron, quindi non è che metto problemi, no? Il cavo scende sempre uno, già fa. Scende sempre uno il cavo, no, non sai che mattere, ui, faccia verde, non è una tenere mi piace. Dietro, dall'altra parte, capito, perché c'è un progetto, che poi ti dico dall'altra parte perché avete la facciata, non si vede lì, sì, si può mettere due scaffe, montare sulla mantua, perché si vede Sassari, Gianfra, non è che ho problemi di chiacchierare con... Mi sentono tutti, non c'è problema. Però non mi interessa. Queste ho già delle offerte praticamente. Vengo, me le smonto, e me le telecompro, non vendo niente. Le smonto, le pulisco e le rimetto dentro le scatole, con i suoi manuali, con le sue, con tutto il suo accorgimento, le conservo, non si sa mai, un domani mi salga nuovamente in testa di fare qualcosa e c'ho tutto pronto, capito, l'attore nuovo c'ha un anno, tutto un anno sul tetto, tutto in ordine, non c'è problema, montate ad hoc veramente, queste sono montate bene, montate bene, chi ha fatto l'impianto l'ha fatto a regola, sia prima di montare le antenne che dopo che sono state montate le antenne, quindi mi dispiace anche toglierle, però le devo togliere, una volta andato via da qua le devo togliere, per il momento rimango lì, capito? Stavo più pensando a montare una multibanda verticale, capito? Una multibanda verticale, buona, o quella della PKW, un'altra B verticale, qualcosa di buono che mi consenta di almeno di ascoltare, capito? Ascoltare, oppure quando capita salutare così qualcuno, come a volte faccio, anche ieri in 40 stavo salutando a Gavino, e quindi niente, capita, qualche volta senti qualche amico, non fa meno di salutarlo, quindi insomma la trasmissione ci deve essere oltre che la ricezione, ma poi si vedrà, c'è ancora tutto quest'anno. E c'è mia figlia a casa, sta ascoltando, sta arricciando il naso, poi mi dirà, ti salga in testa di mettere fili e filetti perché ti ci butto fuori, no, il piano suo è già tutta redatta e completata, il mio insomma non è in alto mare, ma ancora c'è da fare alcune cosette e poi metterci l'allenamento, perché questo regolamento che c'è qua sicuramente non andrebbe, non lo so, vediamo, si vedrà più avanti. Già fra, adesso ti ripeto, sto pensando a lavorare per stare tranquillo e sereno, che è la cosa assolutamente più importante, stare sereni è la prima cosa davanti a tutto e a tutto. Sì, ma anche un fedetto, guarda lì neanche si vedono, ce n'è uno, è un po' lungo, però se non ci fai caso non lo vedi, talmente fino non lo vedi, mentre mi tolgono tanto spazio di ascena e non si vede neanche rispetto a una vecchia, ma sono cose che non c'è da arricciare il naso, e addirittura mi vedi zone di lusso con un antennino, un coso, non si distinguono neanche dalle antenne più ruffa, non me lo so sbloccare, forse di altro non è necessario, ma anche tutti gli scalambroni che c'è adesso non è fare un dramma dal punto di vista estetico, anche perché poi guarda, lo trovo, sai benissimo, una volta che si va in pensione poi c'è il trauma da pensione, cosiddetto, perché inizia a stare in casa, non sai cosa fare, anche perché se tutto fatto già, essendo nuovo, faccio poco da fare, e quindi non c'è niente di più pericoloso per la nubia, perché allora veramente te ne vai, fai come c'è, ti piace stare, a fare così, no, meglio vederti attaccato alla radiolina, a chiacchierare, che vedersi in Piazza d'Italia con i vecchi sinfonati, no, non penso fare quella fine, già fra me ci mancherebbe altro, ripeto, c'è un progetto che qua non ti posso dire, ma avremo modo di parlare, capito, sia per quando andrò in pensione che volendo anche adesso, ma io tempo adesso non ne ho, quindi il genere non c'è la sua attività, mia figlia sta lavorando anche abbastanza, capito, mia moglie vabbè è già pensionata, già 3 anni, quasi 4 pensione, ha lavorato 22 anni all'asilo nido, prende una minima, comunque sono circa 500 euro sino a quando raggiunge i 65 anni d'età, poi gli aumenta perché le tocca l'altra, capito? Questa è quella contributiva, poi le devono dare la retributiva e niente, quindi insomma ci godiamo questa pensione. pensione, gli affari, cosa vuoi fare? No, lì si sta benissimo, lì c'è un progetto mio genero di quelli belli, molto belli, ho una passione che ha lui, passione, oddio, io non lo posso chiamare passione, ma lui sì, comunque a me piace, quindi dovremmo fare un, te lo dico così, insomma, un allevamento di cani, capito? Ma cani di razza, di gran razza, di gran lusso, cani costosi, dove, quindi ci sarà da lavorare parecchio e ti distrai con un dog party che servirà per il periodo estivo per chi vuole lasciare il cane in custodia, capito? Questo è quello che è prospettato, però anche lì ci stiamo lavorando, è dietro appunto una parte del giardino, va chiusa e va fatta questa cosa, ecco perché non voglio avere né tralicci, né antenne, né niente in mezzo ai piedi, perché poi esteticamente è una cosa bruttissima da vedere, capito? Mi interessa di chi la pensa diversamente, a me non... Se avessi avuto la passione che avevo prima, sicuramente avrei scavalcato anche mia figlia e mio genero, perché lì c'è una gran parte di denaro, l'ho messo anche io, quindi, dalla vendita della casa di Via San Francesco. Però non mi interessa proprio, capito? Non voglio infierire, dai. Un'antenna, un'antenna verticale sicuramente la metterò in un punto dove non dà fastidio, dove, ti ripeto, qualsiasi punto lì è altissimo, quindi non mi preoccupo, Gianfranco, nel modo più assoluto, capito? Va bene così, poi ti ripeto, qua c'ho ancora la mansarda, non è che, quindi lì vedrò cosa fare dopo in seguito. Ripeto, ribadisco, non ho questa fretta, no, la casa ce l'ho, sto benissimo, stiamo decidendo, stiamo valutando alcune cose e poi si vedrà più avanti. Per il momento sono qua e qua rimango. Così, così. Vabbè. L'importante è aver già finito i lavori, questa è una cottura, iniziale. Sì, per caso, nonostante poi ieri notte non c'era diciamo una temperatura alta, ma c'era questo caldo insopportabile, appiccicoso, micidiale, e poi anche più tutto manca da luce. Siamo che controllo la sera. Buonasera, che sei nata lì? Ciao, eccolo qua. C'è Claudio, ma è scomparso di colpo, forse è mancata la luce. Evidentemente qualcosa è successo, se è mancato di colpo. Io ho acceso adesso. Sì, infatti ero qua, almeno per sottostarlo, ma non è rientrato, evidentemente l'hanno chiamato. Che non ho capito. Ho detto caldo, c'è nella del tuo spazio. E a 27 siamo qua dentro. E quella notte c'era quell'umido che non si può stare, guarda. Me lo posso immaginare. Marco, non si è sentito? No, sarà con la ragazza. Ah, con la ragazza deve essere a Platamona lui. Visto. L'amore cosa fa fare? Infatti. Vabbè, non è andata lì, ma lontano un attimo che mi stanno chiamando. Sentiamo dopo se c'è sveglio. Vedi un po' se rientra Claudio, dove dicevo, non sono molto lontanamente. Eia, sarà fatto, fai pure. Ok, a dopo. Ciao, ciao. Gianfra. È andato via adesso. si è dovuto allontanare. Mancata la luce di corpo, c'è l'Enel giù, non ho capito cosa stanno facendo. Ehi, saranno i vendicare Consu. Beh, stacca negoziare all'improvviso. No, mica ti mando il telefono, Gianni, prima, scusi signor Marti, possiamo staccare? Certo che sì, devono avvisare, no? E vai, gli si stacca nei bu. Ma stai in varia. Stavo parlando e si è morto il duttuga. Ehi, già me l'ha detto Gianfranco, io ho acceso poco fa. E me l'ha detto Gianfranco che c'eri anche tu, che eri sparito di colpo, se era mancata la luce, ha detto. Ehi Claudio. Ehi, è Gianfranco. Sì, me lo sono immaginato. Comunque anch'io mi stavo allontanando un attimo, dice sì, sentiamo dopo. A più tardi. Ehi, è Gianfranco, grazie per essere entrato a salutare, vai. Sentiamo, tante cose belle. Vai Natalie. Aspetta qua che metto la pettorina a Kurt, che mia moglie lo deve portare, sennò no che mi tira un colpo di bastone in testa. Vai, vai, già sono qua, vai. Ma non è successo niente, cazzo. Male, zero, stavo parlando, ma è attaccato la luce, ma dimmi due. C'è lei nel giro, non lo so, sono qua nella cabina, non so, stanno facendo. Attento Marcolino Condo. Eccomi qua, sono tornato. E Natali, sono qua, stavo leggendo il manuale dell'ICOM, che volevo configurare una cosa, invece non sono riuscito. È ratta, non si è sentito con la fidanzata deve essere. E sicuramente deve essere con la fidanzata, se no in giro a Pratamona. Con un portatile. Potabile. Ogni tanto sento qualcosa in coso, ma no, non è lui. Non è lui, no? Prima ascoltavo 5-6 frequenze tutte assieme, adesso mi ha fastidio solo a tenerne una di radio accesa. Non sei più abituato, che... Davvero mi ha tolito, mamma mia. Ho acceso i 2HF. C'è traffico, ma non mi ha disturbati. Oh, non ce l'ho più la cosa di seguire da una parte all'altra. Io Natali preparati a fine anno, noi togliamo tutto lassù. Tutto, ma a me non ne brigava tutto. Sì, allora tolgo tutto Natali perché se riesco a vendere quest'anno vendo e me ne vado dove c'è mia figlia. Scusa, dai, con antenne Natali Capitulia, queste antenne, è stata una verticale. L'avevo lasciata quando mi sono spostato in via Pasqua. Queste non sono antenne da lasciare, no? Sono pericolose. Ah, è per quello che le togli. Beh, certo che sì. Togliamo e puliamo bene, conserviamo dentro le sue scatole e le lasciamo in mansarda quando capiterà. Vediamo se è dato a tenerle, tanto se ne vai. Vivo loco, vivo. Ma io se sapevo te mi avevo fatto un traliccio e si era vissuto in Chivi dove devi andare a abitare. A fianco di ragazzo l'avevo fatto. No, Antonino, non fa, non c'è il prato inglese, non devo distruggere il prato qua. Basta poi passigendi a fare l'antenna, manutenzione, quella no, ci vuole spazio in cemento. C'era neanche il progetto, guarda, io sto scherzando, stavo facendo fare il plinto, ma non ho fatto fare assolutamente niente, perché non c'è manco il progetto, nulla, nulla, non metto niente, non mi interessa, intanto non te, fanno la fine di qua, capito? Fanno la fine di qua, se tu consigli che faccio sul tetto, solo 2000 euro d'antenne senza rotore, senza commutatore elettronico, senza cavi, senza rotore, capito? E le uso solo per ascoltare, e basta, solo per ascoltare, quindi a cosa serve? Non mi serve più a niente Natalia, io quello che ho detto ho fatto, non me ne ha fatto più nulla, no? Guarda, ho rinnovato 2017, non so neanche io come ho rinnovato, perché è un peccato perdere la licenza. Ma me la sta da capo, viva, di dire non fare manco più. Figurati. Vabbè. Basta buonea che è verticale, basta. Sì, infatti stavo dicendo a Gianfranco, molto probabilmente metterò una multibanda, quella ci sono delle multibanda anche abbastanza interessanti, quella della pick up, c'è quella del gain, c'è quella della Ultra B, molto, molto interessante, sicuramente, ma non ce l'ho in programma, ti dico la pura verità, non ce l'ho in programma, c'ho più in programma di mettere nuovamente la manta, va a un angolo, intanto il posto è molto alto, e basta, e boh, punta, manco V e U, nulla, non vuol niente di più, manco la mossa volata. Ah, ti lascio solo la 27. Sì, Natali, voglio morire CB. Sono nato CB, voglio morire CB. Cazzo, è morto per la diamantole, no, è morto quel CB. Sì. Se ti va in giro di Gonti, cazzo, due soldi ci ho buttato. Dal 93 a oggi, due soldi ci ho buttato. Mamma mia, cosa mi viene, malumore, cazzo. Non ne fare neanche il giro di conti, che sennò ti viene il malumore a vero. Una cosa pazzesca, guarda, una cosa pazzesca. E due anni fa, neanche un anno e mezzo fa, ho comprato anche le radio nuove. Per quello me ne duole il cuore, capito? Me le terrò, perché me le terrò. Mia pazzia, per carità, non solo antenne, pure radio. Infatti, quello che dispiace per la radio è non le puoi utilizzare se non hai le antenne. Vabbè, pazienza. Ti ripeto, metterò una multibanda, qualcosa per accenderle e ascoltare, perché mi piace molto. Io sono sempre in ascolto, anche adesso sono in ascolto. Non è che non ci sono. Ci sono in ascolto. Vedo il dottor Spettro che sale e scende, vedo tutto, non mi piace manco a attendi, cioè il volume, tiene il volume alto come facevo prima, no? 3-4 gradi accesi, adesso niente, le V e le U sono spente, c'ho l'altro mille, il PMR acceso, ogni tanto sento qualcuno che parla, e in realtà di quando te ne scende la uolla, no, non venuta la va. No, non mi sono più ripreso. Ho capito. Se ne è passata la gamma, dai. E più che altro che non ne fatto passare la gamma. La voglia c'è sempre, non lo nascondo, però. Non c'ho più quello spunto che c'era prima, capito? Sono proprio tranquillo, rilassato. Non vedo, non sento, non parlo. Lavoro e lavoro e famiglia, stasera c'è gente a casa, infatti c'è Ilaria a casa, sta preparando, domani sono a riposo, poi mi faccio un sono reperibile domenica e poi rientro il 15 settembre, me ne vado una settimana a Orosei, capito, mia figlia che è in ferie, anche lei rientra il 15, lì da oggi in ferie sino al 15, se ne usciamo fuori Natali, si avvia in cui il radio, l'antenna che l'ha inventato il buco. E se il tempo ci assiste, perché sto dicendo l'aria, che dal... Claudio, attento a Ratta Pignara, ci sei?